un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, sono 8 minuti dopo le 12, siamo in diretta, questa è Radio 24, questo è l'appuntamento settimanale con l'Europa, l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità. L'attualità economica e politica viene narrata giorno per giorno qui da Radio 24, noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista in questa Europa che a volte sembra scricchiolare, però poi ritorna, ci si aggrappa, ci sono mille quesiti a cui si tenta di dare risposte. Lo facciamo con, in collaborazione con Euronet Plus, che è un network di tante radio europee che cercano di raccontare con voci diverse la stessa Europa. Le coordinate digitali per seguirci, euronetplus.eu è il portale del network, oppure radio24.it ovviamente. Invece su Twitter e su Facebook ci trovate con gli account chiocciola euronetplusr24, oppure il mio account personale chiocciola Federico Taddia. Lì in queste bacheche virtuali potete trovare anche tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Si parte ogni settimana un viaggio, oggi il punto d'avvio è l'Erasmus. Forget all. Dig what we all say. Erasmus Generation The Series è un progetto che mette al centro la generazione Erasmus e che per la prima volta diventerà protagonista di una serie televisiva. Ne parliamo subito con Fabrizio Muscia, che è ideatore di Erasmus Generation, progetto che è stato presentato in occasione della Festa dell'Europa a Firenze, ma adesso sta entrando nel vivo. Ciao Fabrizio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico e buongiorno a tutti voi gli ascoltatori. Beh, insomma, l'Erasmus, altro che Altra Europa, l'Erasmus credo sia proprio la colonna portante di questa Europa, no? L'Europa anche della cultura, l'Europa della mobilità, l'Europa della contaminazione. Avete scelto di raccontare questa generazione che è un po' appunto la spina dorsale europea attraverso il cinema, attraverso una serie televisiva. Sì, sì, esatto, esatto. Lo facciamo con storie vere di Erasmus, questa è la particolarità. Stiamo raccogliendo in collaborazione con alcune delle più prestigiose università europee, raccogliamo le storie dei loro studenti che hanno vissuto questa esperienza, e queste storie, le migliori, verranno poi adattate alle sceneggiature dei vari episodi, quindi alla narrativa della serie. Mm-hmm. Lo facciamo perché se non si vive questa esperienza non la si può raccontare, ci sono delle difficoltà a raccontarla perché non si capisce il cambiamento che uno studente che va in Erasmus affronta, questo percorso non lo si può capire. Mm-hmm. Quindi la collaborazione delle università è importantissima. Di tutti i ragazzi a livello europeo. Ricordiamo un po' di numeri: 4.000 le università coinvolte fino ad oggi con l'Erasmus, 33 paesi, 4 milioni di studenti. La difficoltà, credo, Fabrizio, sia quella di rendere interessante un'esperienza personale che davvero ti cambia la vita. Poi magari però dall'esterno uno fa fatica a cogliere questi aspetti dirompenti. La narrazione dell'Erasmus, per essere interessante anche al di là del protagonista, deve avere altro. Credo che sia quello il valore aggiunto che tentate di dare con la vostra serie. Sì, sicuramente non è un argomento facile, non è un argomento facile. L'Europa non è un concetto facile, bisogna anche stare attenti, sono temi molto delicati perché si va a toccare la cultura dei paesi, i valori, i loro valori, quindi molta attenzione quando si parla di Erasmus, quando si parla di Europa. Quello, una delle cose che noi attenzioniamo è di non prendere nessun tipo di posizione politica in tutto ciò, cioè cercare di raccontare questa esperienza in maniera più obiettiva possibile. Mm-hmm. La serie infatti alla fine vuole raccontare quello che gli studenti Erasmus pensano, percepiscono e che affrontano nel mondo che li circonda, che mi permetto di dire è molto diverso da quello che hanno vissuto le vecchie generazioni europee. È un mondo ormai dinamico, veloce, di una scoperta costante di assimilazione culturale, addirittura di linguaggi come lo Spanglish, che viene da una fusione dello spagnolo e dell'inglese, e così via. Ecco. Sicuramente uno sguardo sulla contemporaneità è uno sguardo anche un po' su quella che è stata la storia del percorso europeo. Leggevo nel progetto che in programma non c'è solo quello di realizzare queste pillole, questi mini documentari, ma anche magari di fare dei talk show legati a ciascuno di essi, proprio per approfondire queste tematiche. Sì, mi fa piacere che tu lo stia ricordando. Ecco. La serie televisiva vuole andare al di là di semplicemente raccontare, sì, cioè, raccontiamo l'esperienza Erasmus, però ci siamo proposti degli obiettivi culturali, ossia quello di riuscire a aprire un dibattito sui temi più caldi dell'Unione Europea. Lo facciamo nei talk show. Con professori universitari, con gli stessi studenti delle varie organizzazioni non governative che ci stanno supportando, e questi talk show di mezz'ora per poi approfondire quello che abbiamo visto nella serie televisiva e nell'episodio in particolare. Certo. Come ci si può proporre con la propria storia? Allora, si può andare sul nostro sito, mi permetto di ricordare il nostro sito www.erasmusgenerationthesiries.eu, e tramite il sito, nella sezione raccontati o your story, quella in inglese, i ragazzi possono o scrivere la loro storia proprio sul sito, oppure allegarla in formato PDF o Word e la mandano. Già abbiamo ricevuto 50 storie solo nell'ultima settimana, abbiamo iniziato proprio dalla scorsa, quindi dei buoni numeri. Certo, il tema è caldo. Un grazie a Fabrizio Muscia, insomma seguiremo questo progetto, quindi tienici comunque aggiornati, perché vogliamo accompagnarvi nella realizzazione di questa serie. Grazie mille Federico, grazie per l'invito e la possibilità di attenzionare il nostro progetto, grazie. Buon lavoro, ciao. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Mostra Siriani in transito. L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, in collaborazione con il Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati, organizza la mostra fotografica Siriani in transito, visitabile fino al 30 giugno presso la sede dell'Istituto. Attraverso foto e citazioni, l'esposizione dà voce ai rifugiati che viaggiano verso e attraverso l'Europa. La mostra è un modo per aprire una finestra sul mondo dei rifugiati siriani in Europa e sulle loro aspettative per il futuro, e mira a mettere in luce le ragioni alla base della loro scelta di stabilirsi in un determinato paese, così come le criticità del sistema di asilo europeo. Tutte le informazioni sul sito iicbruxelles.esteri.it. L'altra Europa. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Ancora i giovani protagonisti in questa puntata dell'altra Europa. Lo facciamo andando a leggere una ricerca che si è appena conclusa, che ha visto il coinvolgimento di 4.000 under 18, 4.000 ragazzi della generazione tra i 15 e i 18 anni, una ricerca che fa parte di un progetto Yes for Europe, una ricerca condotta da Eurodesk Italy, che è andata a cercare in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani di fotografare quello che è il rapporto tra Europa, giovani e cittadinanza, andando a evidenziare una fortissima contraddizione, che è quella di questi giovani sempre più lontani, distaccati, forse anche schifati dalla politica, ma nello stesso tempo sempre più desiderosi di essere cittadini attivi, però a modo loro. Di tutto questo ne parliamo con Ramon Maggi, presidente di Eurodesk Italia. Ciao Ramon, benvenuto all'altra Europa. Ciao Federico e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tanto ricordiamo che cos'è Eurodesk. Eurodesk è la struttura della Commissione Europea che si occupa di fare informazioni e orientamento sulla mobilità transnazionale educativa di tutti i giovani. E ricordiamo, insomma, c'è un sito che è molto attivo, è veramente un punto di riferimento il sito, il portale di Eurodesk per tutte quelle che sono le attività, i progetti, le occasioni, le opportunità europee, e in particolare invece Yes for Europe è stata questa ricerca, questa prima tappa, perché insomma ma è un progetto che il desiderio è quello poi di ripeterlo. Cosa siete andati a cercare e chi avete coinvolto? Sì, va detto che il progetto Yes for Europe è un progetto che serve proprio per lavorare con i giovani all'interno delle scuole, quindi la fascia 15-18, 16-18, ed ha lo scopo principalmente di evitare che ci siano i tifosi dell'Europa e invece di creare della consapevolezza su quali sono le opportunità, ma anche i rischi e le difficoltà dello stare insieme con altri 27 paesi. Quello che facciamo quindi con questo progetto è lavorare con i giovani su come si costruisce la cittadinanza europea e quindi poi anche la cittadinanza a livello locale, e nell'occasione abbiamo proprio testato un po' qual è il sentimento dei giovani rispetto a cosa vuol dire essere cittadini, a cosa vuol dire avere a che fare quindi con chi amministra il bene comune, la cosa pubblica, e i risultati sono un po' quelli che hai detto tu. Avete fatto questionari o avete fatto proprio incontri faccia a faccia? Diciamo è stato fatto sia un questionario, chiaramente i 4.000 giovani che sono stati coinvolti hanno compilato un questionario, che però è un questionario fatto direttamente con i nostri operatori a livello locale nelle scuole con cui abbiamo lavorato, quindi loro partecipano direttamente all'attività e alla fine hanno il questionario. E abbiamo fatto anche una serie di focus group poi con alcune città, con un pochino più grosse, che c'erano più partecipazione, proprio per cercare di capire, oltre diciamo il questionario, cosa veniva fuori in una discussione un pochino più partecipata. Ecco, la prima cosa che salta all'occhio appunto è questo sentirsi lontani dalle istituzioni, però per istituzioni loro cosa intendono? Ma guarda, la conoscenza delle istituzioni, quella che hanno diretta, è quella chiaramente più vicina a loro, quindi di solito l'amministrazione comunale, quindi diciamo la lontananza è proprio anche da quella, come dice anche la ricerca, credo si è reso fatto un po' a memoria, ma almeno 2/3 dei giovani che abbiamo intervistato non ha neppure l'idea se esiste o meno un assessore che si occupi dei giovani a livello locale, quindi proprio una distanza abissale anche da quello che vuol dire poi partecipare ed essere cittadini attivi. Però diciamo questo discende anche dal fatto che la loro fonte primaria di informazione oramai è il web più che la televisione, e lì da questo punto di vista la cittadinanza è uno dei temi che viene più utilizzato, più diciamo messa insieme attraverso anche i social dai giovani stessi, si occupano di altre cose piuttosto che di cittadinanza, proprio perché la ritengono una cosa lontana dove è difficile entrare, partecipare e avere soprattutto una risposta da parte di chi si occupa di loro. E invece quando fanno appello a questa voglia, a questa ricerca di tempi e di spazi per diventare cittadini attivi, cosa intendo? Quali sono i sogni, quali sono i progetti? Cosa vorrebbero cambiare? Guarda, la difficoltà che loro hanno ovviamente è quella di vedersi un futuro attivo. Le ragazze appunto sono la maggior parte tra i 16 e i 18 anni, quindi non fanno parte anche della statistica delle disoccupazioni giovanili della loro fascia di età, perché stanno studiando e quindi non sono contati. Però se hanno fratelli o amici o parenti che hanno dai 5 ai 10 anni più di loro, vedono che appunto il 50% di loro in media, ma nel sud ovviamente molto di più, non hanno un lavoro, quindi non hanno una prospettiva, non hanno un futuro per diventare indipendenti, e questo pesa molto nella loro visione di quello che succederà. Sono molto fatalisti in un certo senso, si aspettano che qualcosa succeda. La cosa interessante però è che quando tu gli dici ok, guarda, costruiamo insieme quindi cosa vuoi fare, allora lì la loro voglia di partecipazione è molto forte. Chiaramente bisogna farla non attraverso la cosiddetta rappresentanza, cioè delegare a qualcun altro il loro pensiero, ma coinvolgendoli direttamente nella costruzione, nella progettazione di quello che potrebbe essere il loro futuro anche a livello locale. Allora lì rispondono molto, e non a caso i professori che più fanno già attività di questo genere hanno poi una visibilità e anche una credibilità molto alta proprio come fonte di partecipazione cittadinanza. E in tutto questo l'Europa che ruolo gioca? Hanno una prospettiva europea come un palco, come un campo aperto dove poter appunto essere protagonisti, o l'Europa viene paragonata alle istituzioni, quindi viene vista come una cosa distante? fanno, fa parte delle istituzioni, ma rispettano la classifica che c'è, viene subito dopo la scuola, quindi rispetto alle istituzioni locali sta molto messa meglio, anzi guardando le percentuali oramai che ci sono, quelle che fa l'Eurobarometro sulla media degli italiani e sulla loro, il sentimento di appartenenza all'Europa, i giovani, quelli proprio più giovani, sono molto più europeisti oramai della media degli italiani. Vedono l'Europa diciamo in due ottiche, quella dello studio. Sì. Una volta gli fai capire che ci sono opportunità di studio, tutti sono interessati a fare una parte della loro formazione accademica o anche di scuola stessa all'estero, e soprattutto di lavoro, ovviamente, perché in effetti, se poi si danno le giuste informazioni, lavoro ce n'è, ma spesso è fuori dall'Italia, purtroppo. Ricordiamo il sito yesforeurope.it, il sito del progetto. La ricerca continuerà? Guarda, è la cosa più difficile da fare per noi. Noi stiamo cercando di dare continuità a questi progetti negli anni, appunto, se si va sul sito si trovano anche le altre edizioni che sono cominciate nel 2010. Quest'anno ancora non siamo riusciti a trovare i fondi, nonostante da dicembre dell'anno scorso che stiamo presentando progetti e diciamo richieste di finanziamento, ma ad oggi nessuno ci ha ancora risposto, un po' come dire all'italiana. Va bene, noi aspettiamo. Grazie davvero a Roman Maggi, presidente di Eurodesk Italia. Buon lavoro. Ciao. Grazie a voi, buon lavoro. Europost-it. Europa creativa all'Ischia Film Festival. L'Europa sbarca all'Ischia Film Festival grazie a Europa Creativa, che organizza insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e a Istituto Luce Cinecittà un Info Day sul sottoprogramma media di Europa Creativa. Europa Creativa finanzia, distribuisce e promuove progetti artistici, culturali e creativi promossi da singoli o da organizzazioni all'interno dell'Unione Europea. L'Info Day è in programma per il 2 luglio e avrà luogo nel Castello Aragonese, sede del Festival, dalle ore 9.30 alle 13.30. Durante la giornata saranno presentati i principali bandi riguardanti il sostegno ai festival, l'audience development e l'accesso ai mercati. L'evento è gratuito ed è rivolto a tutti gli operatori del settore audiovisivo. Iscrizioni fino ad esaurimento posti all'indirizzo accrediti@ischiafilmfestival.it. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. Fuggire attraverso i confini e ricominciare da capo in un posto nuovo, una frase che racchiude mille storie, che sono le storie che stiamo vedendo, scoprendo in queste settimane, in questi mesi in cui la migrazione diventa un problema, non è più vista la persona, ma è visto solo il problema, la politica disorientata, numeri che fanno paura, e c'è sgomento, ci sono immagini che fanno saltare un po' tutte quelle che sono le regole di convivenza, le regole dell'umanità. E poi appunto c'è la politica, ma per fortuna c'è anche la scienza. Lunedì 29 giugno all'Università Cattolica del Sacro Cuore si è tenuta la proclamazione di oltre 180 dottori di ricerca. Ogni ricercatore, ci siamo, è una storia, sono sacrifici, sono studi, sono visioni, ma anche qui per fortuna sono spunti su cui puoi ragionare, su cui costruire. Tra i tanti dottori ne abbiamo scelto uno, si chiama Roberto Cortinovis, spero di aver pronunciato bene il cognome, adesso glielo chiederò, classe 85, ha analizzato l'origine e l'evoluzione della dimensione esterna della politica migratoria europea. Abbiamo il piacere di averlo qua con noi. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori. Ho pronunciato bene il cognome intanto? Perfetto, perfetto. Ok, ciao Roberto. Allora, guarda, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te e andiamo a scoprire un po' quello che è stato il cuore della tua ricerca. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Radio24.it è il nostro sito, nelle pagine dell'altra Europa potete trovare, riascoltare la puntata, tutte le altre puntate, anche tutti i contributi speciali che lì potete trovare. Chiocciola Federico Taddia per trovarmi su Twitter e su Facebook. Euronetplus.eu invece è il portale di Euronet Plus, il network al quale apparteniamo. Queste tutte le coordinate virtuali, poi abbiamo ospiti reali con noi Roberto Cortinovis, appunto stavamo andando alla scoperta del suo lavoro, della sua tesi di ricerca. Roberto, cosa hai analizzato? Allora, quello che ho tentato di fare è analizzare il processo decisionale a livello europeo per quanto riguarda alcune iniziative principali adottate nell'ambito della politica migratoria, in particolare la dimensione esterna di questa politica. Quindi ho analizzato in particolare la creazione dell'agenzia Frontex, ho analizzato gli accordi di riammissione che sono indispensabili al fine di attuare una politica di ritorno dei migranti irregolari nei paesi da cui provengono, e poi i partenariati di mobilità, che sono un'iniziativa più recente che ha come obiettivo quello di creare delle partnership più ampie con i paesi terzi, che sono state ad esempio proposte a seguito del 2011 anche a paesi nordafricani come il Marocco e la Tunisia. Quindi quello che ho tentato di capire ad esempio è perché nel caso di Frontex, a Frontex sono stati è stato conferito solo un ruolo di coordinamento delle attività degli stati membri e non un ruolo politico più di decisione più rilevante, ad esempio. E hai trovato anche la risposta a questa domanda? Sì, la risposta è un punto centrale, al di là delle elaborazioni teoriche, la riluttanza da parte degli e a volte anche l'indecisione da parte degli stati membri nel muoversi verso una maggiore cooperazione. E questo perché? Perché da una parte la maggiore cooperazione a livello europeo promette una maggiore efficacia e soluzioni, diciamo così, più effettive. Dall'altro, per come è strutturato il framework di cooperazione europeo, richiede una cessione di sovranità e una perdita di autonomia da parte degli stati membri. Ricordiamo che anche in seno al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea si decide per maggioranza qualificata, quindi può accadere che le preferenze specifiche di uno Stato, nella fattispecie particolare o anche in futuro, non vengano tenute conto. Quindi questa è una dimensione che per gli Stati membri e per quanto riguarda questioni sensibili come quelle migratorie ha giocato un ruolo molto molto rilevante. Una soluzione quale può essere? Una soluzione può essere quella di adottare strumenti non vincolanti, ad esempio il caso del meccanismo di riallocazione dei richiedenti asilo di cui si discute in questo momento, in questi giorni, va proprio in questa direzione. Uh-huh. Adottare quindi uno strumento che non vincola gli stati membri. Certo. D'altra parte questa soluzione è più facile da raggiungere nel corso dei negoziati, dall'altro è più difficile farla rispettare, è più incerto l'esito di questa possibile soluzione. Quindi credo che per molte partite a livello europeo, sulle questioni in particolare quelle più spinose, si giochino su questo tipo di scelta, ecco. Come mai hai scelto questo oggetto di studi? Ho scelto questo oggetto perché già qualche anno fa, quando ho iniziato, le politiche migratorie a livello europeo stavano cominciando a diventare particolarmente rilevanti, anche perché essendo un ambito abbastanza recente di introduzione a livello europeo, poneva e ancora pone dei quesiti delle questioni specifiche che non erano state affrontate magari dalla letteratura come altri ambiti della cooperazione a livello europeo. Complimenti davvero, un grazie a Roberto Cortinovis, dottore in Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, in bocca al lupo per la tua carriera. Ciao, buon sabato, ciao ciao. Europost-it. Social World Film Festival. Attenzione appassionati di cinema, dal 4 al 12 luglio torna a Vico Equense in provincia di Napoli il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, quest'anno patrocinata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il Social World Festival è tra i più giovani d'Italia, organizzato da un team di professionisti dai 18 ai 35 anni e guidato da Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore artistico di 25 anni. I lungometraggi, documentari e cortometraggi in proiezione, suddivisi in 6 categorie, sono stati selezionati per via diretta dalla direzione artistica e tramite bandi di concorso. Il festival offre anche altre attività, fra cui concorsi di fotografia, workshop e mostre. Tutte le informazioni sul sito ufficiale socialfestival.com. Pressure to break or retreat at every turn. In the fear that the truth I discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom. 20 soggetti fondatori, 15 paesi diversi, questi sono i numeri del centro per la libertà di stampa, il centro europeo, che verrà inaugurato martedì 30 giugno alla presenza del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, un centro per la libertà di stampa che avrà sede a Lipsia, una cordata di cooperative, di associazioni che si battono da sempre per la libertà di stampa. Tra i protagonisti ci è anche Osservatorio Balcani e Caucaso, la realtà che bene conosciamo perché sono bravi e perché tante notizie, tanti spunti, tante visioni ci hanno regalato in questi anni. Diamo il benvenuto a Chiara Sighele di Osservatorio Balcani e Caucaso, che è proprio in collegamento da Bruxelles. Ciao Chiara. Ciao Federico, grazie delle belle parole con cui ci hai accolto. Allora, cosa succederà martedì, che è appunto giornata simbolica di un qualcosa di ben più concreto? Sì, come dicevi, martedì ci sarà l'inaugurazione, l'investitura ufficiale, diciamo, al Parlamento europeo di questo nuovo centro, lo European Center for Press and Media Freedom, che ha sede a Lipsia e che è stato fondato qualche giorno fa appunto nella città tedesca. La creazione di questa cooperativa europea, che è un centro indipendente no profit che può operare insomma in tutto il continente, è il primo passo di questo nuovo progetto sulla libertà dei media in cui l'Osservatorio è coinvolto. È un progetto che consolida un percorso insomma che abbiamo avviato negli anni e che in realtà a cui siamo arrivati, perché appunto il tema della libertà e del pluralismo dei media, così come le difficoltà e le minacce e le varie violazioni che si trova a subire chi fa giornalismo in modo indipendente e di qualità, affronta, insomma, rientra tra i temi più cari, certo, di Osservatorio. Ma quali sono gli obiettivi che si pone il centro? Non solo quello, immagino, di fotografare la situazione, questo è sempre importante per rendersi conto di quello che accade, ma non vuole essere solo un osservatorio. Certamente no, l'obiettivo ambizioso, come dicevo, della cooperativa è quello di creare uno spazio permanente di scambio, di raccordo e per fare massa critica all'interno di una comunità di attivisti per la libertà dei media molto, molto variegata, con moltissimi attori, molto frammentata. Quindi il primo obiettivo è proprio quello di fare massa critica, una cooperativa che, come ricordavi, nel momento della sua fondazione accoglie 20 membri fondatori, tra cui Osservatorio, ma che resta aperta anche in futuro per nuovi soci che si vogliano impegnare su questo tema. Chiaramente quello del monitoraggio, della denuncia delle violazioni è tra le sue attività principali, ma sicuramente c'è anche quello di offrire assistenza molto concreta a chi si trova in difficoltà di natura, con per esempio delle residenze per i giornalisti, oppure con anche sostegno finanziario o legale a chi si trovi in situazioni di cause, per esempio per diffamazione o cose del genere, ma anche, e questo è il ruolo di Osservatorio in particolare, quello di un costante lavoro di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza di questo tema. sia presso i cittadini europei che presso i policy maker. Certo, tra l'altro voi di osservatorio insomma avete anche un ruolo credo fondamentale, perché siete anche un osservatorio appunto di confine, no? Tra l'Europa di oggi e l'Europa forse di domani, che è quella che guarda ai Balcani, quindi credo che sia veramente un punto a vostro favore, anche un punto di attenzione, un punto forse ancora di maggior responsabilità. Beh, sicuramente Osservatorio, con il lavoro che fa focalizzato su sud-est Europa, la Turchia, i paesi del partenariato orientale, copre alcuni dei paesi in cui le difficoltà legate alla libertà dei media o alla sicurezza di chi fa informazione sono più gravi, però e in questo siamo sicuramente affiancati dal lavoro di SIMO, Southeast Europe Media Organization, che è uno dei partner del progetto, che è proprio un centro di monitoraggio che ha sede a Vienna, ma che copre tutta la regione, insomma. E quello di cui ci siamo resi conto, per esempio, nel progetto dell'anno scorso, è che comunque questo è un tema davvero europeo e che ci riguarda tutti come cittadini, perché e che anzi c'è anche una grande difficoltà, c'è una percezione diffusa del fatto che questo non sia un problema, o perché pensiamo di vivere in democrazia, che quindi, insomma, non ci siano più questioni di questo tipo da affrontare, o anche perché c'è una certa disaffezione da parte dei cittadini nei confronti della categoria professionale dei giornalisti, o comunque una grande sfiducia nei confronti dell'indipendenza dei media. Questo lo rivelano varie statistiche, sondaggi un po' in tutti i paesi dell'Unione Europea, e quindi la specificità del nostro ruolo come think tank e media online è proprio quello di far passare il messaggio, cioè cercare di suscitare interesse e attenzione a quello che sta capitando sicuramente nei Balcani, nel Caucaso, senza parlare dell'Ucraina, dove con la guerra in corso chiaramente i giornalisti sono tra i primi, insomma, a soffrire di conseguenze durissime, con anche le varie persone morte nel fare il loro lavoro, insomma, è un problema di dimensione europea. Chiaramente un caso emblematico su questo, molto recente, per esempio, quello della Bulgaria, uno Stato membro che dal 2004 ad oggi in realtà ha visto peggiorare drammaticamente la sua posizione nella classifica che ogni anno Reporter Senza Frontiere fa sulla libertà di stampa nel mondo. E lì insomma siamo nel cuore dell'Europa, quindi insomma è inutile fare gli struzzi, senza pensare all'Italia ci sono davvero molte questioni, chiaramente è molto sfaccettato il problema non per questo, insomma, è molto sfaccettata anche la composizione di questa cooperativa europea. Ricordiamo, martedì 30 giugno verrà inaugurato, alla presenza di Martin Schulz, ci sarà anche un convegno, ci sarà Luisa Chiodi, che è direttrice scientifica di Osservatori Balcani e Caucaso, tra i relatori dell'evento. Balcaniecaucaso.org, il portale, come sempre, dove trovare tutte le informazioni. Ciao Chiara, grazie, buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Concorso EPSO per curatori. Siete professionisti nel campo della cultura e della conservazione dell'arte? Allora preparatevi, perché EPSO, l'Ufficio Europeo di Selezione del Personale, cerca curatori, educatori museali e conservatori in vista dell'apertura della Casa della Storia Europea di Bruxelles. Attualmente sono disponibili 55 posti che verranno suddivisi tra funzionari, amministratori ed assistenti. Gli interessati dovranno inviare la candidatura entro e non oltre le ore 12 del 23 luglio 2015, cercando il bando Curators Museum Educators Conservators sul sito europa.eu/EPSO. L'altra Europa. Señor. autorità portoghesi, Amalia Rodriguez, che canta Lisbona antica, e con questa musica andiamo proprio a Lisbona. Perché? Perché si sta tenendo il terzo evento del progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Europea per i cittadini attraverso le memorie, un secolo di giovani, un'iniziativa che vede come capofila l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. E ci colleghiamo proprio con Massimiliano Bruni, che è uno dei collaboratori dell'archivio. Ciao Massimiliano. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, cosa state combinando lì a Lisbona? Sì, come hai accennato, appunto, stiamo appunto svolgendo il terzo evento di To The Memories, un progetto che coinvolge noi, Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano come capofila, e due associazioni, i nostri partner, una di Berlino e l'altra appunto di Lisbona, l'archivio neonato dei diari di Lisbona. Uh-huh. E lavorando sulla memoria, appunto, la nostra volontà era quella appunto di riprendere le memorie conservate nei nostri archivi, renderle fruibili per i giovani e chiedere a loro di darci una loro lettura, una loro visione di momenti storici selezionati, che in questo caso appunto sono la Grande Guerra per quanto riguarda partenariato italiano, la caduta del muro di Berlino per quanto riguarda il partner tedesco e la rivoluzione dei garofani per quanto riguarda il partner. Certo. Ma quindi, scusa, attraverso i diari cercate le memorie di giovani o attraverso i diari cercate rielaborazione fatte dai giovani di oggi di quelle memorie? Allora, la nostra volontà appunto è di mettere in connessione i giovani di oggi con i giovani che hanno vissuto quei momenti storici là, perciò utilizzare il filo conduttore delle emozioni provate in gioventù di un giovane di oggi rispetto ad un giovane che nel 14, nel 15 partiva per la trincea. Mettere in connessione tramite appunto le emozioni giovanili i giovani di oggi, cercando di farli rivivere ove possibile e nella misura in cui è possibile appunto le emozioni che quei giovani provavano in trincea. Tutto questo è partito, diciamo, dall'idea di Nicola Maranesi, che ha scritto Avanti Sempre, che è un libro tratto appunto dai diari di Pieve, nei quali si analizza le emozioni e il climax emotivo di un militare che partiva verso la trincea appunto della Prima Guerra Mondiale. Storie diverse e immagino però emozioni comuni che chiedete ai giovani d'oggi di reinterpretare e riscoprire. Come? Solo attraverso la lettura di questi diari o avete innescato altri meccanismi? Allora, la nostra volontà appunto era di quello, prima di tutto di rendere fruibili ai giovani i nostri materiali, perciò cioè renderli disponibili. Abbiamo chiesto a loro una loro restituzione, ma non volevamo semplicemente un loro riassunto o una loro restituzione, volevamo capire come loro avrebbero reinterpretato quelle memorie, e abbiamo chiesto a loro di proporci a noi delle modalità di fruizione che loro ritenessero maggiormente fruibili per le nuove generazioni. Perciò, per fare alcuni esempi, ci sono ragazzi che hanno lavorato con immagini, con fotografie, altri che stanno realizzando o hanno realizzato brani musicali sia a livello strumentale sia anche scrivendo parole, perciò insomma stiamo attendendo le più variegate restituzioni da parte di questi giovani. Uh-huh. E l'avete trovata questa emozione comune? Sì, l'abbiamo trovata, il partenariato è molto variegato, perciò anche a livello culturale, insomma, ognuno ha un approccio assolutamente differente, anche perché i momenti storici sono molto differenti tra loro. In Italia ormai sono passate tre generazioni che dividono chi appunto ha combattuto la Prima Guerra Mondiale rispetto ai giovani che abbiamo coinvolto adesso. Per quanto riguarda la Germania, diciamo una generazione, perché si parla dell'89, perciò i giovani che stanno lavorando in Germania hanno la possibilità di confrontarsi con coloro che hanno vissuto quei momenti. Il Portogallo, ancora la vicenda è ancora, sebbene sono passati 40 anni, ancora più fresca, in quanto comunque la società portoghese sta ancora rielaborando quella fase storica. Perciò anche l'approccio culturale e di coinvolgimento dei giovani è variegato proprio per questa differenza di rilettura storica. Certo. Archiviodiari.org per tutte le informazioni. Il progetto si concluderà a settembre, sicuramente ci risentiremo in quei giorni per il gran finale, così magari facciamo anche ascoltare alcune di queste rielaborazioni. Molto volentieri, molto volentieri. Ciao Massimiliano, grazie e buon lavoro. Grazie, buona giornata, arrivederci. Europost-it. Concorso Europe in My Region. Conosci progetti, strutture o idee realizzate nella tua regione grazie ai fondi dell'Unione Europea? Allora scatta una foto e caricala sull'applicazione Europe in My Region, che troverai sulla pagina Facebook della European Commission, e partecipa al concorso L'Europa nella mia regione. Le foto concorrenti saranno giudicate inizialmente dal pubblico di Facebook e nella fase finale da una giuria internazionale di professionisti. I tre vincitori avranno diritto ad un viaggio per due persone a Bruxelles durante la 13ª settimana europea delle regioni e città. Cerca il regolamento di Europe in My Region su facebook.com/European Commission. Hai tempo fino al 28 agosto. Questi sono i nostri Europostit, vi ricordo che potete ritrovarli tutti, riascoltarli e andare a cercare i relativi link su Twitter nel mio account personale, oppure su radio24.it nelle pagine dell'Altra Europa c'è la sezione contributi extra e lì potete appunto ritrovare tutti gli Europostit e riascoltare l'intera puntata. E ringrazio la squadra dell'Altra Europa, Silvia Righini e Miriam Lucchetti, oggi in assistenza Claudia Schiattone, ha giocato in regia con i tasti Andrea Roccabella. Vi ricordo che sabato prossimo saremo in diretta da Expo, perché da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio ci sono tantissime trasmissioni in diretta in onda negli studi di Radio 24 nel padiglione Cibus Italia, il padiglione dedicato alle eccellenze dell'industria agroalimentare italiana e protagonisti del Made in Italy. Quindi saremo anche noi là sabato dalle 12 alle 13, puntata live, quindi vi aspettiamo, tante tematiche europee, ma magari ci vediamo anche di faccia, ci conosciamo lì, che è sempre bello fare i programmi dal vivo. Ancora grazie, ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.